Today we shall continue with our series of discourses on wisdom, and certainly the focus will be in particular on the seven enlightenment factors. Continuiamo con il nostro discorso sulla saggezza e l'enfasi sarà messa sui sette fattori di illuminazione. And as mentioned yesterday already, the seven factors of enlightenment are makers of vision, makers of knowledge, promoting the growth of wisdom. Come abbiamo detto ieri, i sette fattori di illuminazione creano la visione, la conoscenza e promuovono lo sviluppo della saggezza. And they free from vexation, sono annoyance. Sono liberi dall'essere infastiditi, dall'essere molestati. And they lead towards what? E conducono verso che cosa? Nibbana, yes. This is correct. Now, the Pali term for the enlightenment factors is Sambojanga. Il termine in Pali per questi fattori di illuminazione è Sambojanga. Or in a simpler form, Bojanga. O nella sua forma semplificata, Bojanga. And the Pali term Bojanga consists of two parts, namely Bodhi and Anga. E questa parola consiste di due è un composto insomma da body e anga. And the term, Pali term body, may translate as enlightenment or an enlightened being. E il termine body si può tradurre con illuminazione o illuminato oppure essere illuminato. And the Pali term anga means factor or a causative factor. E anga vuol dire fattore oppure fattore causale. So when we combine those two parts, namely bodhi and anga, then it becomes bojanga in Pali, and the meaning of fatna, though satna then in English, is a cause for enlightenment or a causative factor of an enlightened being. Quindi quando body e anga vengono messi insieme diventa appunto bojanga e questa parola vuol dire appunto i fattori di una causa per la liberazione oppure i fattori causali della liberazione per un essere, per un nuovo, un essere illuminato. And several other interpretations of etymological and interpretations of that term Bojanga do exist, and I'll give two more, namely Bodhi meaning knowledge that comprehends the four noble truths. Ci sono altri significati etimologici di questa parola, per esempio body può significare la conoscenza che comprende le quattro nobili verità. And the Pali term anga remains the same, so part or portion or factor. La anga invece ha lo stesso significato, appunto come fattore, parte, porzione. And when we combine those two, bodhi and anga, then it becomes bojanga. And certainly the term then refers to the specific part of knowledge that sees or comprehends the four noble truths. E quindi questa parola bojanga può anche intendere quella specifica parte della conoscenza che comprende le quattro nobili verità. And as we have explained already in the course of these discourses, there are so many different kinds of knowledge of wisdom, and Bojanga is that part that comprehends the four noble truths. Come abbiamo visto nei discorsi precedenti, ci sono veramente molti diversi tipi di conoscenza e di saggezza, e il Bojanga è quella parte che comprende le quattro nobili verità. Now, a third interpretation of the term Bojanga is as factors causing awakening from sleep induced by the mental defilements. Un terzo significato di Bojanga è i fattori che causano il risveglio dal sonno che è causato dagli inquinanti mentali. The seven enlightenment factors play an important role in not only in Theravada Buddhism or Buddhist teachings, but also in Mahayana Buddhist teachings. So they're well recognized. I sette fattori di illuminazione giocano un ruolo fondamentale non soltanto nel buddismo Theravada, ma anche in quello Mahayana, quindi hanno un grande riconoscimento nel buddismo. And these seven enlightenment factors are said to be seven conditions of welfare, aparihaniya dhamma in the Pali scriptural language. E sono detti essere sette condizioni per il benessere. And welfare in the sense that they greatly contribute to the realization of the Dhamma, and with that, eradication of certain mental defilements, and the arising of noble path knowledge and fruition knowledge. Il benessere nel senso che sono una causa per la realizzazione del Dhamma e quindi per lo sradicamento, se non altro parziale, di alcuni degli inquinanti e naturalmente anche sono causa per il nobile sentiero e la fruizione. Now, as we've seen, they cause vision, knowledge and growth of insight. Come abbiamo visto, loro causano la visione, la conoscenza e la crescita e lo sviluppo dell'insight. They further said not to consort with pain, and rather they are conducive to the supreme goal. Not to consort, not to associate with. E inoltre non si associano con il dolore, con gli stati di sofferenza, ma portano allo sviluppo, supreme goal. Ma conducono alla meta suprema. And they constitute the way for crushing the armies of Mara. E sono il modo per sconfiggere gli eserciti di Mara. And they're further said to be, or when cultivated and made much of, they complete release, they lead to release by knowledge. E quando vengono coltivate ad alti livelli conducono alla liberazione attraverso la conoscenza. And they lead to the destruction of conceit. E conducono alla distruzione della presunzione. No. The seven enlightenment factors, and that the Buddha has spoken of, these he has He experienced it himself, he discovered it for himself, and this is what he taught. Il Buddha ci ha detto che questi sette fattori di illuminazione lui li ha sperimentati di prima persona, li ha scoperti, ed è questo è quello che ci ha insegnato. And the instructions that he has given in regard to the seven enlightenment factors are contained in the Satipatthana and Mahasatipatthana Sutta. Le istruzioni sono contenute nel Satipatthana Sutta e nel Mahasatipatthana Sutta. And they state if the enlightenment factor of mindfulness is present in a person, then he or she knows there is the enlightenment factor of mindfulness in me. Se il fattore di illuminazione della consapevolezza è presente in una persona, lui o lei sa che il fattore dell'illuminazione della consapevolezza è presente in lui. And if the enlightenment factor is not present in him or her, one knows there is no enlightenment factor in me. Se il fattore dell'illuminazione non è presente in questa persona sa che questo fattore di illuminazione non è presente. And one knows how an unarisen enlightenment factor can arise and how the arisen enlightenment factor can be perfected by development. E questa persona sa come fare sorgere il fattore dell'illuminazione che non è ancora sorto e sa come fare aumentare e portare alla perfezione un fattore dell'illuminazione che è sorto. And those seven enlightenment factors, to state this once again, are mindfulness, investigation of states, and then effort or energy, then we have joy, tranquility, concentration and equanimity. Allora ripetiamoli un attimo: sono la consapevolezza, l'investigazione degli stati, l'energia, la gioia, la tranquillità, la concentrazione e l'equanimità. And these the instructions given by the Buddha consist of the four parts. The first and second simply focus on the presence or absence of an enlightenment factor. That's all one needs to know. Le istruzioni del Buddha riguardo a questo si dividono in quattro parti e le prime parti si concentra soltanto sul fatto di rendersi conto se un fattore dell'illuminazione è presente oppure no. And so, in actuality there will be times in one's meditation practice when this or that enlightenment factor is not present in the mind, and there will be other times when a particular mental or enlightenment factor is present in the mind. Quindi nella nostra pratica di meditazione ci saranno dei momenti in cui questo o quell'altro fattore di illuminazione sono presenti nella nostra mente e in altri momenti invece non saranno presenti. And so simply just to pay attention to this presence or absence of the respective enlightenment factors. Significa porre la nostra attenzione, fare attenzione se questi fattori sono presenti oppure sono assenti nella mente. And if this or that enlightenment factor is absent, then to know the conditions that lead to the arising of the respective enlightenment factor. E se ci accorgiamo che uno dei fattori di illuminazione è assente nella mente, è bene sapere, conoscere le condizioni per poter far sorgere questo fattore di illuminazione. And if and a particular enlightenment factor is present, then to know the conditions that lead to a further development and perfection of the respective enlightenment factor. Se un fattore di illuminazione è presente, è bene conoscere le condizioni e le cause per riuscire a sviluppare e a far crescere, a portare alla perfezione questo fattore. The Enlightenment factors are present in a latent form in the stream of consciousness of any human being. Allora, questi fattori di illuminazione sono presenti in forma latente nel flusso di coscienza di tutti gli esseri umani. However, they do not arise all the time. Però non sorgono sempre. And some of the enlightenment factors come to prominence as when the imperfections of insight occur. E i fattori di illuminazione nella loro, alcuni fattori di illuminazione iniziano a diventare evidenti quando si presentano le cosiddette imperfezioni dell'insight. And those imperfections of insight consist of illumination or basa, then keen, unerring knowledge, then we have joy, we have tranquility, we have happiness, then there is happiness, next one is faith, then determined faith, then strong energy, bhagaha, strong mindfulness, and the last one is attachment, nikanti. Oh, no, sorry, equanimity is also there, and the last one is attachment. Okay, I remember the first two. So, allora, the first four, illumination. Allora, c'è, tra le imperfezioni in sette c'è illuminazione, diciamo, la luce. And then we have keen, unerring knowledge. Poi abbiamo questa conoscenza acuta e molto nitida. And next we have joy. Poi c'è la gioia, la tranquillità. Then tranquility, then the happiness. La felicità. La fede determinata. Then strong energy. Una forte energia. Then also strong mindfulness. Una forte consapevolezza. And then equanimity. L'equanimità. The last one is attachment. E poi l'ultimo è l'attaccamento. Il deliziarsi. So if we look at the enlightenment factors, the first one is mindfulness. The next one is investigation of states, which is nothing other than knowledge. And among the imperfections of insight, the second one is just that, keen, unerring knowledge. E se vediamo i sette fattori di illuminazione, il primo è la consapevolezza, il secondo l'investigazione dei Dhamma è una forma di conoscenza e vediamo che c'è infatti anche in queste imperfezioni dell'insight, nel senso questa conoscenza nitida e penetrante. And the joy and tranquility are both part of the imperfections as well as the enlightenment factors. La gioia e la tranquillità anche ci sono sia come fattori di illuminazione che come imperfezioni dell'insight. Happiness is an imperfection, yet even though it's not mentioned as an enlightenment factor, the fact that concentration is an enlightenment factor implies that some degree of happiness must be there for concentration to arise, because it's a proximate cause for the arising of concentration. La felicità è menzionata soltanto tra le imperfezioni dell'insight, però nei fattori di illuminazione, dato che è menzionata la concentrazione, vuol dire che è implicita anche il fattore della felicità, perché se c'è la concentrazione c'è anche una forma di felicità, dato che è la sua causa prossima. And then we have among the imperfections the faith, and in particular the energy, which is an imperfection and also one of the enlightenment factors. Poi, per esempio, l'energia anche si trova in entrambi i gruppi. And then we have mindfulness as an imperfection of insight and also as an enlightenment factor. La consapevolezza si trova anche lei in tutti e due, in questi due gruppi. And satna, then furthermore, there is satna equanimity in both cases, in both groups. E poi sempre in entrambi i gruppi si trova anche l'equanimità. And satna, so if sukha is one of satna, the imperfections of insight, and the fact that it's there, allows certain the conclusion that most likely the mind will also be concentrated at that point. E quindi, essendoci sukha, cioè la felicità tra le imperfezioni dell'insight, ci fa capire che la mente a un certo punto raggiungerà la concentrazione. Now, in particular, with regard to the unfolding of the enlightenment factors, they do arise in a particular sequence. E in particolare i fattori di illuminazione si presentano in una sequenza particolare definita. And certainly that sequence corresponds to what unfolds in the practice. E questa sequenza si sviluppa durante la pratica. And typically, those enlightenment factors arise one by one. E generalmente si presentano proprio uno alla volta questi fattori. And once they've all arisen, then it's a matter of strengthening them and balancing them. Quindi una volta che uno di questi è sorto, o tutti sono sorti, si tratta di rafforzarlo e di farlo sviluppare. Venerable Bhikkhu Bodhi has di bilanciarlo, scusate. Venerable Bhikkhu Bodhi has made the following statement in regard to the enlightenment factors. He writes, "The seven states are grouped together as enlightenment factors, both because they lead to enlightenment and because they constitute enlightenment." Allora, Bhikkhu Bodhi dice che questi sette fattori sono messi insieme come fattori di illuminazione sia perché conducono all'illuminazione, ma anche perché proprio essi stessi creano l'illuminazione. In the preliminary stages of the path, they prepare the way for the great realization. In the end, they remain as its components. In the preliminary stages of the path. In the primary stage, nei primi stadi della pratica. They prepare the way for the great realization. Preparano la strada per la realizzazione più grande. And in the end, they remain as its components. E poi rimangono come suoi componenti. No. The Majjhima Nikaya contains a discourse in which this sequential arising of the enlightenment factors is certainly being described. Il Majjhima Nikaya contiene una sezione in cui viene descritta questa sequenza del sorgere dei fattori di illuminazione. The Samyutta Nikaya also has a similar sequence. E anche nel Samyutta Nikaya si trovano delle sequenze simili. Now, in terms of the arising of the enlightenment factor of mindfulness, sati sambhujanga. Allora, riguardo al sorgere del fattore di illuminazione della consapevolezza, sati sambhujanga. And how do the four establishments of mindfulness developed and cultivated fulfill the seven enlightenment factors? E su come lo sviluppo dei quattro fondamenti della consapevolezza nella loro pienezza possa condurre allo sviluppo dei sette fattori di illuminazione. On whatever occasion a retreatant abides contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world, on that occasion unremitting, so continuous, that mindfulness is established in the meditator. Allora, ogni volta che un meditante dimora sulla consapevolezza rivolta al corpo in modo ardente, con chiara comprensione e consapevole, e avendo messo da parte il desiderio e lo scontento nei riguardi del mondo, la sua consapevolezza è continua. Yeah. Okay? That's great. And on whatever occasion, unremitting, so uninterrupted mindfulness established in a retreat, and on that occasion, you know, the mindfulness enlightenment factor is aroused in him or her. E quindi ogni volta che la consapevolezza di un meditante è ininterrotta, è continua, allora è presente in questa persona il fattore di illuminazione della consapevolezza. And he or she develops it, and by development it comes to fulfillment. Lui o lei lo sviluppa e grazie allo sviluppo raggiunge la sua pienezza, la sua perfezione. And then, you know, once this enlightenment factor of mindfulness is present, then gradually it leads on to the arising of the next enlightenment factor, namely that of investigation of states. E quando questo fattore di illuminazione è presente, poi questo conduce al seguente fattore di illuminazione, che è l'investigazione degli stati. And the text certainly states, abiding thus mindful, one investigates and examines that state with wisdom and embarks upon a full inquiry into it. Quindi dimorando consapevole, un meditante indaga dentro alla natura degli stati e fa questa investigazione profonda. Uh-huh. On whatever occasion, abiding thus mindful, retreatant investigates and examines that state with wisdom and embarks upon a full inquiry into it, on that occasion the investigation of state's enlightenment factor is aroused in him or her. Quindi quando un meditante sulla base della consapevolezza riesce a fare questa indagine e investigare in profondità dentro gli stati grazie, utilizzando la saggezza, allora è presente in lui il fattore di illuminazione dell'investigazione. And again, one then develops it, and by development it comes to fulfillment in the person. E anche questo poi viene sviluppato e grazie allo sviluppo viene portato alla sua pienezza. Now, from there, the sequence moves on, and the Majjhima Nikaya describes, in one who investigates and examines that state with wisdom, and state means any object of observation, with wisdom, and embarks upon a full inquiry into it, tireless energy is aroused. E poi continua la sequenza: per una persona che investiga, indaga con saggezza negli stati, qui con stati si intende qualunque tipo di fenomeno, a una persona che ha un'indagine di questo tipo, a un certo punto sorge una forte energia. Uh-huh. And that energy is quite different from earlier on, quite stronger. E questo tipo di energia è molto diverso da quella che poteva esserci prima, è più forte. On whatever occasion, tireless energy is aroused in a retreatant who investigates and examines an object, on that occasion the energy enlightenment factor is aroused in him or her. Quindi ogni volta che in un meditante sorge questa energia instancabile basata sull'indagine dei fenomeni, allora in questa persona è presente il fattore di illuminazione dell'energia. And the person then develops this enlightenment factor of energy, and by development it comes to fulfillment. E una persona sviluppa questo fattore di illuminazione dell'energia e grazie allo sviluppo questo fattore raggiunge la perfezione. Then the arising of the next factor, namely joy, is described in the following words. In one who has aroused energy, unworldly rapture arises. Poi viene descritto il sorgere del fattore seguente che è la gioia, quindi in una persona che ha questa energia instancabile sorge questo rapimento non mondano. Mm-hmm. On whatever occasion unworthy rapture arises in a retreatant who has aroused energy, on that occasion the rapture enlightenment factor is aroused in him or her. Quindi ogni volta che in un meditante sulla base di una forte energia sorge questo rapimento che non è mondano, in questa persona è sorto il fattore di illuminazione della gioia. Mm-hmm. And this the factor then one develops, and by development it comes to fulfillment. Questo fattore viene poi sviluppato e raggiunge la perfezione. Now, what happens next? In one who is rapturous, the body and the mind become tranquil. Poi quello che succede dopo è che quando in una persona c'è questo rapimento, il corpo e la mente si tranquillizzano, diventano tranquilli. On whatever occasion the body and the mind become tranquil in a retreatant who is rapturous, on that occasion the tranquility enlightenment factor is aroused in him, and certainly he or she develops it, and by development it comes to fulfillment. Quindi in quel momento in cui in un meditante sulla base del rapimento la sua mente e il suo corpo diventano tranquilli, in quella occasione presente in questa persona il fattore della, cosa che succede? Della tranquillità che viene poi sviluppato e portato alla perfezione. Yes, right. And allow me to elaborate on this point a little bit. Namely, it says the body and mind becomes tranquil. To express this differently, the body and mind become still. And it actually occurs in this sadness sequence. Namely, earlier on, there may be a lot of physical restlessness, a lot of physical agitation, and everything but stillness of the body. However, as one's practice deepens, then gradually all that physical restlessness, agitation subsides, and what we find in, or what happens instead, is this stillness of the body. Allora, per analizzare meglio questo punto, quando si parla di tranquillità si intende una specie di fermezza, dell'essere fermo del corpo e della mente, nel senso che se in precedenza, mentre meditavamo, c'era molta agitazione, molta irrequietezza, per esempio fisica, poi quando abbiamo sviluppato la pratica, a un certo punto subentra questa fermezza del corpo. And based on the stillness of the body, then arises, as a next step, the stillness of the mind. E sulla base della fermezza del corpo, il passo successivo è questo sorgere della fermezza della mente. And the mind is such that if there's still, or if there's still some bodily agitation, it will agitate the mind. Quindi se il corpo è fermo qua? No. Se c'è ancora un po' di agitazione corporeale, allora la mente si agiterà. Quindi il corpo è fermo, però, però se c'è dell'agitazione, se non ci fosse il corpo fermo, la mente si agiterebbe. And so keep that in mind. And so the stillness, this calming of the senses that was mentioned at the outset of this retreat, it's terribly important. Quindi, come abbiamo detto dall'inizio del ritiro, questo fermare i sensi è un punto incredibilmente importante. Or beginning a retreat and don't realize this and they run around. All'inizio i meditanti non riescono a comprendere davvero questa cosa e quindi c'è molta agitazione. Now, from the tranquility, the development then goes towards certain concentration. In one whose body is tranquil and who feels pleasure, the mind becomes concentrated. Quindi dalla tranquillità si procede verso la concentrazione, dunque in una persona in cui è presente la tranquillità e il piacere, sorge la concentrazione. On whatever occasion the mind becomes concentrated, in a retreatant whose body is tranquil and who feels pleasure, on that occasion the concentration enlightenment factor is aroused in him or her. Quindi quando in un meditante la concentrazione sorge sulla base della tranquillità del corpo e del piacere, in quel caso è presente nella persona il fattore di illuminazione della concentrazione. And allow me to point out one point in this certain regard. It says, and one whose body is tranquil and who feels pleasure, and this "and who feels pleasure" is a reference to sukha, happiness. Allora, quando dice la persona il cui corpo è tranquillo e prova piacere, questo riferimento al piacere si sta riferendo proprio a sukha, la felicità di cui parlavamo prima. And so, then, based on these two aspects of tranquility and happiness, then the mind becomes concentrated. Quindi sulla base di questi due fattori, della tranquillità e della felicità, la mente diventa concentrata. So, if on occasion there are difficulties to bring about certain concentration, then we want to ensure the tranquility of the body and the mind, and make sure that contentment is there, a sense of satisfaction, of happiness, of well-being is there, and we're not, the mind is not occupied with this or that problem. Quindi nei momenti in cui abbiamo delle difficoltà a raggiungere la concentrazione potremmo provare a controllare se c'è questa tranquillità del corpo e della mente e anche se è presente un senso di contentezza, di appagamento o di soddisfazione e anche controllare che la mente non stia divagando, che sia ferma. Enlightenment factor of concentration, once it is well developed and brought to perfection or fulfillment, then leads on to the arising of the enlightenment factor of equanimity. Il fattore di illuminazione della concentrazione poi viene sviluppato, viene portato alla perfezione, questo conduce al sorgere dell'equanimità. And the text describes one closely looks on with equanimity at the mind thus concentrated. I testi dicono che l'equanimità One closely looks on with equanimity at the mind thus concentrated. Quindi guardare molto da vicino con equanimità una mente che è concentrata in quel modo che abbiamo detto prima. Okay. On whatever occasion a retreating closely looks on with equanimity at the mind thus concentrated, on that occasion the equanimity enlightenment factor is aroused in him or her. Quindi ogni volta che un meditante riesce ad osservare così bene, così da vicino, una mente concentrata, in quel modo che è stato detto, allora in quel momento nel meditante è presente il fattore di illuminazione dell'equanimità. And retreat then develops it, and by development it comes to fulfillment. E poi il meditante lo sviluppa e grazie allo sviluppo arriva alla perfezione. And so that's the description of the sequential arising of the enlightenment factors as given in the text. È così, in questo modo, che viene data questa descrizione della sequenza di come sorgono i fattori di illuminazione. Now, one can train the mind even beyond this, namely that after having aroused the enlightenment factors, then to develop all of this to mastery, a level of mastery. Ma lo sviluppo, l'abilità in questo può essere portato a un livello ancora maggiore. Questo vuol dire che una volta che sono sorti e li abbiamo accresciuti, si può raggiungere proprio un livello di padronanza di questi fattori. And a passage as evidence for this is from the Samyutta Nikaya. Nel Samyutta Nikaya ci sono dei passaggi proprio che evidenziano questo punto, lo provano. And Sariputta addresses a group of monks and he states there are the seven factors of enlightenment and then he names them. Sariputta si rivolge a un gruppo di monaci e gli dice ci sono questi fattori di illuminazione e li elenca. Whichever of these seven factors of enlightenment want to dwell in, whichever of these seven enlightenment factors of enlightenment I want to dwell in during the morning, I dwell in that factor of enlightenment during the morning, then during the midday or in the evening. E dice, se io voglio dimorare in uno di questi fattori di illuminazione, posso farlo, posso dimorarci alla mattina, posso dimorarci nel pomeriggio o a mezzogiorno. And then he goes on to say, if, O friends, it occurs to me, let it be the enlightenment factor of mindfulness, it occurs to me. Quindi, amici, se io penso che il fattore di illuminazione della consapevolezza sorga in me, questo fattore arriverà. So, just the thought of let such and such an enlightenment factor occur, and it actually occurs. Quindi basta soltanto questo pensiero, questa intenzione che questo o quell'altro fattore si manifestino, e questi fattori davvero si manifestano. And then Sariputta goes on to say, if it occurs to him, it's measureless, then it is measureless. E se io voglio che siano, che arrivino in uno stato immisurabile, cioè molto molto potenti, questi si presentano in questo modo. And if it occurs to him, may it be fully perfected, it will be just that. E se io voglio che si presentino in modo, nella loro piena perfezione, così è come si presentano. And so this passage describes a high, a highly skilled mind in terms of arousing the enlightenment factors and then calling them up. Questo passaggio sta descrivendo una mente che è altamente abile nel far sorgere questi fattori di illuminazione e di padroneggiarli. Now, in terms of the enlightenment factors, it's good to be aware of the contrast between, the contrast, the opposition, antithesis between the hindrances and the enlightenment factors. A questo riguardo è utile anche conoscere il contrasto che c'è tra i fattori di illuminazione e gli ostacoli, cioè sono come degli opposti, dei fattori che si oppongono. And so the hindrances are said to be obstacles, corruptions, obstructions. Allora, gli ostacoli sono definiti come impedimenti, come ostruzioni o come corruzioni. Makers of blindness. Creano la cecità. Destructive to wisdom. Distruggono la saggezza. And distractions from the path to Nibbana. Distruggono il sentiero per il Nibbana. Whereas the seven enlightenment factors have been praised by the Buddha as assets, makers of vision and knowledge, promoters of wisdom. Mentre i fattori di illuminazione sono stati elogiati dal Buddha perché creano la visione, la conoscenza, promuovono la saggezza. And as aids along the path to Nibbana. E sono un aiuto lungo il sentiero verso il Nibbana. And so this antithesis between the hindrances and the enlightenment factors is something that does occur in our practice. And it's kind of like a battle between those. At times the hindrances are, or the hindrances emerge and certainly cause lots of difficulties. Then, through continuous mindfulness, one eventually manages to overcome them. Then the enlightenment factors have a chance to arise, at least some of them. And then after a while, one loses the momentum, one gets attached to this or that enlightenment factor, and the practice drops off and the hindrances are back. Allora, questa specie di antitesi che c'è tra questi due gruppi di fattori lo ritroviamo nella nostra pratica un po' come una specie di battaglia che c'è. Vediamo che ci sono a volte gli ostacoli che sorgono, quindi dobbiamo attraversare molte difficoltà nella pratica, poi quando riusciamo a superare gli ostacoli e sorge qualcuno di questi fattori di illuminazione, allora passiamo dall'altra parte, però dopo un po' magari si perde lo slancio di questi fattori oppure sorge l'attaccamento per i fattori di illuminazione, allora li perdiamo e nuovamente sorgono gli ostacoli e quindi c'è questa sorta di continua battaglia. And so we want to practice to such an extent that one can overcome the hindrances for an extended period of time, and then the mind and the enlightenment factors then prevail for a longer period of time. Quindi quello che cerchiamo di fare nella nostra pratica è di superare gli ostacoli per dei periodi di tempo sempre più lunghi, in modo che i fattori di illuminazione possano sorgere per dei periodi sempre più lunghi. And when the enlightenment factors are in the foreground of our attention, of our experience, then the hindrances will be absent. Quando i fattori di illuminazione sono preluminanti in primo piano rispetto alla nostra esperienza, in quel momento gli ostacoli sono assenti. And there's a huge difference between a mind that is engulfed in and overwhelmed by the hindrances and a mind in which the seven enlightenment factors are present. E c'è una differenza gigantesca tra una mente che è sommersa, prevaricata dagli ostacoli, e invece una mente che è dotata dei fattori di illuminazione. Now, similar to the five controlling faculties, the balance of, or the balance of the controlling faculties, similar to that, and balance among the enlightenment factors is also important. Allo stesso modo, come era importante l'equilibrare le facoltà di controllo, così è importante anche l'equilibrio tra i diversi fattori di illuminazione. And also there's mention of seven enlightenment factors, and these can be divided in two groups, one calming group and one more energizing group. Questi sette fattori di illuminazione possono essere divisi in due gruppi, uno è un gruppo più calmo e uno è un gruppo più energetico. And certainly so the more energetic ones are investigation of states and then energy and joy. Il gruppo energetico è composto dall'investigazione degli stati, dall'energia e dalla gioia. And the more calming enlightenment factors are the enlightenment factors of tranquility, concentration and equanimity. Mentre il gruppo più calmo, più calmante, è composto dalla tranquillità, dalla concentrazione e dall'equanimità. And when on occasion the mind is certainly somewhat sluggish, then we need to cultivate and develop the more energizing enlightenment factors. Quindi se ci sono dei momenti in cui la nostra mente è particolarmente fiacca e impigrita, è il momento di coltivare i fattori energizzanti. On the other hand, if the mind is certainly somewhat on the agitated side, then it needs to be calmed down, and this is best done with the calming enlightenment factors. Se invece la nostra mente è più verso il lato dell'agitazione, allora è bene coltivare quei fattori che sono calmanti. Now, in the end, this arousing of the enlightenment factors and certainly the strengthening of them and the balancing of them will happen quite naturally as an outcome of our practice, of our mindfulness practice. So in the end, it's just we keep up our mind, the continuity of our mindfulness, we keep observing whatever predominant object comes along, and gradually these enlightenment factors will show up. Comunque questi fattori di illuminazione, il sorgere di questi fattori, il rafforzare i fattori e il bilanciarli sarà qualcosa che avverrà in modo automatico con lo sviluppo della nostra pratica, quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente continuare a osservare con consapevolezza gli oggetti che sono predominanti nella nostra pratica e tutto poi si svilupperà. No. Since certainly the general theme of this of the Dhamma talks is wisdom, so let's take a somewhat closer look at the enlightenment factor of investigation of states. Quindi, dato che tutto il tema portante dei nostri discorsi è la saggezza, guardiamo più in dettaglio il fattore della indagine degli stati. And the qualities of wisdom you know by now, the characteristic function manifestation and the two proximate causes, no need to mention that again. Quindi, dato che sapete ormai quali sono le caratteristiche, le funzioni, la manifestazione, le due cause prossime della saggezza, non c'è bisogno di ripeterle. Now, the interesting part is is mentioned in the text, namely, there are so-called nourishments for the arising of that enlightenment factor of investigation of states. È una cosa interessante che vengono menzionati dei punti, dei fattori che nutrono il sorgere del fattore dell'investigazione degli stati. And by the same token, there's also the denourishment of that same enlightenment factor. E sorge anche il discernimento? No. Ah, ok. Ci sono anche dei fattori che invece sono detrimentali. sono contrari allo sviluppo e al sorgere di questo fattore. So, in terms of the nourishment, and what is the nourishment for the arising of the unarisen enlightenment factor of discrimination of states or investigation of states? Allora, qual è il nutrimento per il sorgere o lo sviluppo dell'investigazione degli stati? For the fulfillment by development. e per il suo sviluppo, il suo completamento attraverso lo sviluppo of the arisen enlightenment factor of investigation of states. Di questa investigazione dello, degli, cioè lo sviluppo, la il raggiungimento della pienezza del fattore degli stati che è già sorto. And so the Buddha says that there are wholesome and unwholesome, blameable and blameless states. Allora il Buddha dice ci sono degli stati benefici e non benefici e playable. Blameable, salutare e non salutare, ah, and then blameable and blameless. Ok, colpevoli o innocenti. Mm-hmm. Inferior and superior states. Stati inferiori o superiori. Dark and bright states. Stati luminosi oppure oscuri. And frequently giving careful attention to them is the nutriment for the arising of the unarisen enlightenment factor of investigation of states. E dare la nostra, prestare attenzione in modo frequente a questi diversi stati, questo qua è il fattore che nutre lo sviluppo, il sorgere dell'investigazione degli stati. And so, if we do give careful attention to hold to ensure that the mind is wholesome and that blameless states prevail and superior states prevail, bright states prevail, well, that sapna will support the arising of this enlightenment factor. Quindi se facciamo attenzione che gli stati nella mente siano salutari, allora poi questo supporterà gli stati, quelli luminosi, quelli appunto senza macchia, senza colpa, e quindi questo porta all'investigazione degli al crescere dell'investigazione. Uh-huh. And then in terms of the denourishment of that certain enlightenment factor, we have the same wholesome and unwholesome states, blameable and blameless states, etc. And not frequently giving attention to them is the denourishment that prevents the unarisen enlightenment factor of investigation of states from arising. Allora, quello che invece è il fattore contrario, che non aiuta lo sviluppo e la crescita dell'investigazione, è che quando in presenza di tutti questi stati, salutari, non salutari, luminosi, oscuri, eccetera, noi non prestiamo attenzione a questi stati. Allora, in questo senso, l'investigazione non aumenta, anzi diminuisce. Now, the commentary to the Samyutta Nikaya gives seven more points or factors that contribute to the arising of the enlightenment factor of investigation of states. Nel Samyutta Nikaya vengono elencati altri sette fattori che contribuiscono al sorgere, allo sviluppo dell'investigazione degli stati. And those are asking questions in regard to the Dhamma. Il primo è fare domande che riguardano il Dhamma. Ensuring the cleanliness, personal cleanliness as well as of one's direct environment. E mantenere pulita la propria persona e anche l'ambiente circostante. A balanced mind, and this refers to the balance of the controlling faculties. Che la mente sia equilibrata, questo si riferisce alle facoltà di controllo equilibrate. Avoiding fools and associating with friends or making friends with the wise. Evitare gli sciocchi e fare amicizia con le persone sagge. And then reflections on profound truth. Riflettere sulle verità profonde. And then inclining the mind towards this investigation of states. E inclinare la mente verso questa indagine degli stati. With this, allow me to conclude today's discourse, wishing what has been described May it inspire you to practice wholeheartedly, and may the enlightenment factors sooner or later arise in your practice, become a reality, and then may they be more and more developed and ultimately come to fulfillment and lead on to the realization of the peace of Nibbana. Per concludere vi auguro che questo discorso vi sia utile, vi sia di ispirazione per praticare in modo ardente, che poi prima o poi questi fattori di illuminazione sorgano e diventino una realtà per voi, e che portandoli al compimento, alla fine vi aiuteranno, vi condurranno alla pace del Nibbana. Sado, sado, sado.